La voce femminile al telefono è fresca, briosa ed energica. È tanto energica di fatto che parla senza tenere il minimo conto dei miei tentativi di inserirmi nella conversazione e sfido. Come mi renderò conto tra qualche istante, è una voce registrata. Buongiorno signora, mi augura Ilare. Oggi è il suo giorno fortunato. Lei ha vinto 1 milione. E prima ancora che io possa compiacermi alla notizia, mi precisa che potrò utilizzare la somma per un trattamento al viso e un rimodellamento del corpo presso l'Istituto Tal dei Tali in via Taralto a numero di telefono così e così. Mi raccomanda di telefonare subito e stacca la comunicazione lasciando in linea solo il segnale di occupato. E io resto lì a meditare sulla vanità delle fortune umane e sulle ingerenze nella vita privata dei cittadini. Perché vedete, io, come credo abbia detto Loredana Bertè, non sono una signora, e anche se ammetto che un energico trattamento rimodellante al corpo non mi farebbe che bene, non credo proprio che potrei cavarmela con la bazzecola di 1 milione. E comunque so benissimo che se anche avessi le caratteristiche desiderate e mi presentassi a quell'istituto, non mi vedrei certo offrire un trattamento da 1 milione, per quel che vale, sulla semplice attestazione di aver ricevuto una telefonata. Al massimo mi offrirebbero, fingerebbero di offrirmi un pari sconto su quale parcella sporrebbero. Comunicazioni del genere di solito ti arrivano per posta e immancabilmente il godimento del colpo di fortuna che annunciano è subordinato all'acquisto del tal prodotto al tal prezzo, che è facile supporre maggiorato in partenza dell'importo corrispondente all'offerta sbandierata. A me questa pratica è sempre sembrata una truffa a danno di destinatari particolarmente ingenui e mi sono sempre stupito che l'autorità, o l'autority credo si dica oggi, consenta di praticarla con tanta liberalità, ma evidentemente l'autorità non ha niente da eccepire e visto che un annuncio di straordinarie fortune a mezzo lettera ci abbiamo fatti tutti un po' il callo e la tendenza è quella di cestinare senza dar seguito, qualcuno si è preso la briga di inventare un dispositivo automatico che telefona un certo numero di utenti scelti chissà in base a quali criteri e sottopone loro la proposta truffaldina per via aurale. E telefono certo a un'autorevolezza che il servizio postale ormai ha perso. A una lettera commerciale non bada nessuno più di tanto, quali che siano gli espedienti adottati dal mittente. Una telefonata invece non è tanto facile ignorarla, anche se non sei a casa quando ti arriva, è difficile oggi che non venga registrata sull'apposita segreteria. E le leggi della statistica evidentemente garantiscono che anche dando per scontato che un certo numero di comunicazioni finisca in orecchie disinteressate, che so, orecchie maschili, orecchie femminili smaliziate, o orecchie di signore provviste di un viso che non necessita di trattamento alcuno e di un corpo che sarebbe un delitto tentare di rimodellare, e comunque che un certo numero di telefonate a destinazione arriverà comunque, quanto basta a giustificare la spesa dell'investimento pubblicitario. Certo, per organizzare una campagna del genere bisogna avere un bel coraggio, o almeno una buona dose di incoscienza. In fondo, per chi sventola in giro raffiche di telefonate a caso, non dovrebbe essere facile prevedere le reazioni dell'interlocutore. Capirete anche. Uno alza la cornetta, si sente annunciare da una voce briosa che oggi è la sua giornata fortunata. E se fosse uno a cui quel giorno non è andata bene una? Uno che è stato licenziato, o abbandonato dall'amorosa, o appena ricevuto un avviso di garanzia da parte della locale procura, o appena letto sulla pagina finanziaria che il fondo di investimento azionario a cui ha affidato i suoi risparmi ha investito tutta la borsa di Singapore. O, peggio ancora, uno che aspetta con angoscia che il telefono gli porti una notizia che ha fondati motivi di temere, non so, che vuol sapere se quella tal proposta professionale è stata accettata o no, o come è andato l'esame del nipote amatissimo, o qual è l'esito dell'operazione a cui è stato sottoposto l'anziano parente. Alza la cornetta e tac, buongiorno signora, oggi è la sua giornata fortunata. Sì, sappiamo che oggi l'hanno licenziata, che è stata piantata dal marito e dal fidanzato contemporaneamente, che la procura non ha spiccato un avviso di garanzia solo perché ha preferito chiedere un mandato d'arresto, che il suo fondo di investimento ha chiuso per debiti, che la sua proposta è stata rifiutata, che suo nipote è stato respinto con ignominia e che l'operazione dell'anziano parente è andata benissimo, sì, ma lui sta peggio di prima e toccherà a lei assisterlo a vita naturale durante. Sappiamo tutto questo, ma in compenso ha vinto 1 milione da spendere presso il nostro centro di trattamento al viso e di rimodellamento del corpo. Non è contenta? Ecco, io non so quanto un messaggio del genere sarebbe produttivo dal punto di vista pubblicitario. Ma forse queste sono solo fantasticherie mie, e fantasticherie di uno che per motivi generazionali un po' del telefono diffida sempre e che non lo considera un normale strumento di comunicazione, ma un meccanismo fatto apposta per portare notizie importanti e in quanto tali spesso non gradevolissime. Uno io, che al telefono risponde sempre con un filo di diffidenza. Oggi, nell'età dei cellulari e della reperibilità telefonica illimitata, quelle preoccupazioni forse non hanno motivo di essere. E d'altronde chi ti telefona per venderti qualcosa non si preoccupa minimamente di te, nel senso di che cosa ti possa preoccupare o rallegrare. A lui basta che tu abbia quel minimo di capacità d'acquisto che può giovargli ai fini dello smercio dei suoi prodotti. E l'unica tua dimensione che gli interessa è quella del possibile consumatore. E già, a 30 anni dal 68 e a 34 dal saggio di Marcuse che l'aveva ispirato, siamo tutti e sempre di più uomini a una dimensione.